24 mattino di Alessandro Milan. Alle 7:21 minuti, eccoci qua, cari ascoltatori, in diretta fino alle 9 anche oggi, 24 mattino. Oggi nel nostro sondaggio parliamo dei rifiuti, del fatto che molte regioni del nord hanno deciso di non accettare rifiuti di Napoli. Una scelta giusta? Questo vi chiediamo nel nostro sondaggio, votate su radio24.it. Questo tema è anche affrontato dai giornali, giornali che andiamo a sfogliare. In primo piano. Giovedì 25 novembre, l'apertura del Sole 24 Ore dedicata all'Irlanda, austerity fino al 2014. Mentre tutti gli altri quotidiani aprono più o meno unanimemente sulla vicenda delle proteste degli studenti che hanno assediato il Senato alla vigilia dell'approvazione della riforma sull'università. Gli studenti assediano il Senato, Gelmini, così difendono i baroni, è il titolo del Corriere. La rivolta delle università per Repubblica, studenti assalto al Senato per la Stampa e così via. Il vero precario sul tetto, c'è Libero invece con la foto di Bersani che si è issato sul tetto per protestare con alcuni ricercatori. Il Manifesto invece elogia 10 in condotta con la foto dell'assalto al Senato, mentre l'Unità, sempre la foto degli scontri o comunque delle manifestazioni, urlando furiosi. Questo il titolo di apertura. Va bene, io voglio iniziare dalle segnalazioni. La prima è in prima pagina del Corriere della Sera, è una storia di una consulenza raccontata da Sergio Rizzo, il rapporto sui fannulloni in appalto. Chi è Augusto Pistolesi? Lo ha spiegato 4 anni fa Gianfranco Rotondi al giornalista del Corriere Cazzullo. È un mio compagno di scuola. E oltre a essere un compagno di scuola, Pistolesi ora è al Ministero per l'attuazione del programma. Ha seguito il ministro Rotondi, è infatti il suo consigliere giuridico. Inizia così il racconto di Sergio Rizzo, una consulenza che la Commissione per la valutazione delle pubbliche amministrazioni, presieduta da Antonio Martone, ha dato ad Augusto Pistolesi 50.000 euro. Sostanzialmente si tratta di questo, una consulenza per la quale c'è stata un'interrogazione del senatore Ichino chiedendo come mai è stata data questa consulenza a una persona che non ha, secondo me, un curriculum adatto. La risposta del presidente della commissione a Ichino è questa: l'incarico conferito al dottor Pistolesi ha un oggetto preciso, quello di curare i rapporti col ministro per l'attuazione del programma di governo e redigere la bozza di relazione annuale al titolare di tale dicastero. Insomma, l'organismo presieduto da Martone ha l'obbligo di presentare una relazione annuale al ministro Rotondi. E a chi è stato dato l'incarico di compilarla? Al consigliere giuridico del ministro stesso. Roba da trasecolare, racconta Sergio Rizzo. In questo modo, in pratica, il documento viene redatto dallo stesso destinatario del rapporto. Una consulenza di 50.000 euro raccontata in prima pagina e poi all'interno a pagina 24 e 25 da Sergio Rizzo. Sapete che in questi racconti si racconta anche uno spaccato di Italia. E poi l'abbiamo sentito nel GR ed è una notizia che ha preso tante pagine sui giornali, tra il gossip ma certo anche l'interesse di cronaca. Ieri chi ha visto il TG4 ha visto un Emilio Fede apparso in volto tumefatto con un livido. E che è successo? Emilio Fede picchiato dall'imprenditore dell'amaro Giuliani. Una cena al ristorante La Risacca di Milano, lo racconta il Corriere, ma ovunque, sulla stampa, Fede aggredito, pugni dal fondatore dell'Amaro Giuliani. Addirittura il Quotidiano Nazionale la mette così: l'amaro è servito, Fede pestato dal signor Giuliani. Una cena, Emilio Fede era a cena con Stefano Bettarini e Raffaella Azzardo. Nello stesso ristorante c'era il titolare dell'Amaro Giuliani, l'imprenditore Gian Germano Pippo Giuliani. E che è successo? Secondo il racconto di Emilio Fede, si è avvicinato, pensavo volesse salutarmi e invece mi ha sferrato 3 terribili pugni sul viso. Con tutti a guardare, né i proprietari né i camerieri hanno fatto niente, solo la scorta è intervenuta. Prognosi di 15 giorni al San Raffaele, collare ortopedico, antidolorifici. Mi ha insultato, mi ha minacciato a morte, non ho reagito, escludo questioni politiche e sentimentali, è stato un raptus di follia. E certo, però sulla stampa qualcuno dice: invece Emilio Fede ha detto Sibillino mi spiace, ha problemi familiari. E giallo sul movente sta di fatto che c'è stata questa rissa in piena regola con Emilio Fede che dice così alla stampa. Beh, come Berlusconi, Berlusconi a Tartaglia, io l'imprenditore Giuliani. Ci fermiamo, ripartiamo dalla politica dopo pubblicità e meteo. In primo piano. Sulle prime pagine dei giornali trovate le foto degli scontri che ci sono state, manifestazioni degenerate in scontri, ieri soprattutto al Senato, quando un gruppo di studenti che manifestavano contro la riforma dell'università hanno tentato di fare ingresso nell'androne del Senato, quindi molto molto fortemente simbolica la protesta. Ore 12.30 i ragazzi sfondano il portone uova e fumogeni contro Palazzo Madama, questo a pagina 3 di Repubblica. Tra l'altro invece Fiorenza Sarzanini sul Corriere della Sera, pagina 2-3, racconta dell'imbarazzo del Viminale, l'assalto senza ostacoli al palazzo e l'imbarazzo del Viminale, un imbarazzo concretizzato dalle parole del Presidente del Senato, Schifani, che ha diramato una nota per dichiarare di aver ricevuto assicurazione dal Ministro Maroni che in futuro non si ripeteranno fatti di questo genere. E certo ora c'è le polemiche anche sull'autorizzazione del percorso alla manifestazione. Troverete anche la foto di un Pierluigi Bersani, il segretario del PD, il Corriere per esempio la mette in prima pagina sotto il titolo d'apertura, che ha scalato il tetto ed è andato simbolicamente a protestare con quei ricercatori che sono sul tetto della facoltà di architettura a Roma a protestare. Poco dopo l'ha fatto anche Di Pietro. Tra l'altro vi ricordo che Oscar Giannino alle 9 si occuperà proprio di questo tema, la riforma dell'università, che è il motivo di queste proteste. E la rivolta dell'università titola così anche Repubblica. Ci sono molti commenti su tutti i giornali, per esempio Alfredo Reichlin nel consueto editoriale dell'Unità di pagina 2, di solito affidato al direttore, oggi invece ad Alfredo Reichlin, dice: beh, ragazzi, ribellatevi. Questo è l'invito di Alfredo Reichlin alla maggioranza di giovani a cui resta solo il lavoro precario per colpa anche di noi vecchi che sulle loro spalle abbiamo trasferito l'onere di pagare l'immenso debito pubblico accumulato e quindi per loro non c'è futuro, speranza, innovazione. Io dico ribellatevi, le vicende di ieri sono un buon segno. Mentre invece sul Foglio di tutt'altro tenore si parla dell'università assediata, ma dall'interno, in uno dei tre editoriali consueti nella pagina degli editoriali, una manifestazione studentesca ha attaccato il Senato, più a scopo televisivo che neppure dimostrativo. Altri studenti precari si sono accampati sui tetti dove hanno ricevuto la visita disperatamente televisiva del segretario del Partito Democratico. Niente a che vedere con le manifestazioni vere come quelle di Londra, con larga partecipazione studentesca. E la risposta del Foglio è questa: bisogna fare subito il possibile per approvare rapidamente la riforma, lasciando che chi vuole sfogarsi in piazza lo faccia, chi vuole dare un'immagine del paese in preda all'isteria e coperto di immondizia continui pure a fare il suo mestiere mistificatorio, basta che chi ha la responsabilità di governare faccia il suo. Dunque la risposta per il Foglio è: a queste proteste, a maggior ragione a queste proteste, approvate questa riforma. Comunque, di questa riforma ne parlerà Oscar Giannino, anche delle proteste. Per Libero il nuovo fronte è quello che sarà nei giorni a venire. Certo, la simbologia è molto forte in questi casi, fossero stati anche pochi studenti, ma l'assalto al palazzo, l'assalto a Palazzo Madama, l'assalto al Senato, vale a dire una delle istituzioni più importanti della Repubblica Italiana, beh, è un qualcosa simbolicamente di molto molto forte. Qualcuno dice: beh, vedremo nei prossimi giorni. La riforma dell'università tra l'altro è stata per il momento sospesa perché c'è qualche problema all'interno della maggioranza, ma dovrebbe essere stato trovato l'accordo, ma non verrà approvata né oggi né domani, probabilmente slitterà a martedì, ma l'accordo tra PDL e Finiani è stato raggiunto e dunque si teme che quando ci sarà l'approvazione ci possano essere delle ulteriori proteste. Staremo comunque a vedere. La politica si interroga anche su che cosa? Beh, ieri Berlusconi ha fatto una conferenza stampa nella quale per la verità doveva parlare di altro, cioè della vicenda dei fondi stanziati per i giovani dal Ministero della Gioventù, il Ministro Meloni, ma in realtà si sa, quando poi Berlusconi va in conferenza stampa si parla anche d'attualità politica inevitabile. Beh, il tema del giorno in vista del 14 dicembre, no? Il giorno, il D-Day della legislatura, così è stato definito, Berlusconi ha offerto all'UDC l'appoggio esterno e poi ha detto Fini faccia un passo indietro. Poi dopo è arrivata la smentita del portavoce Bonaiuti a dire non ha chiesto le dimissioni di Fini. Sta di fatto che il retroscena di Francesco Bei su Repubblica, pagina 7, è molto chiaro. Quelli sono pazzi irresponsabili. Questa è l'ira del cavaliere sul terzo polo. Sono degli irresponsabili, dei pazzi. Quando un affranto Gianni Letta gli comunica che la maggioranza si è dissolta sulla riforma dell'università e Fini pretende una rettifica alla richiesta di dimissioni, altrimenti, sussurra Italo Bocchino, il provvedimento tornerà in commissione e amen. Ed ecco dunque il Paolo Bonaiuti che ha fatto questa precisazione. Berlusconi in conferenza stampa non ha chiesto le dimissioni di Fini. La parola, l'espressione usata da Berlusconi è il passo indietro lo faccia Fini. Ormai è evidente, racconta Francesco Bei, che da qui al 14 dicembre ce ne sarà una. E il problema è questo, che c'è un Berlusconi, secondo tutti, che non si vuole più contenere, che è già in campagna elettorale. Lo stesso Paolo Bonaiuti, terminata la conferenza stampa, secondo Repubblica gli avrebbe detto «Caro Presidente, mi dispiace dirtelo, ma hai sbagliato. Perché ti sei messo a rispondere alle domande politiche?» Perché nella conferenza stampa Berlusconi ne ha avuto per tutti, per Fini, per Montezemolo, per Casini. Anche Libero, su questo, Salvatore Dama, scrive a pagina 8, nel consueto commento di politica, più botte per tutti. Silvio accelera la crisi, ormai si sente in campagna elettorale, aveva giurato al braccio destro Bonaiuti che nella conferenza stampa si sarebbe attenuto ai temi dell'incontro, vale a dire i 300 milioni di euro messi a disposizione per gli under 35 dal ministro Meloni, e invece appena è andato in conferenza stampa Fini faccia un passo indietro, Casini pensi al bene del paese e non al tornaconto del suo leader. A Montezemolo parlare è facile, noi facciamo i fatti. Insomma, un Berlusconi che sembra assolutamente irrefrenabile perché si sente in campagna elettorale piena. Per Repubblica, ancora per il secondo giorno insiste, il partito nuovo si chiamerà Avanti Italia e secondo Ignazio Abrignani, responsabile del settore elettorale del PDL, si sarebbe lasciato sfuggire parlando sottovoce alla Camera con un altro deputato, anche il simbolo è già pronto. Staremo a vedere anche questo. Intanto c'è da registrare che Montezemolo, dopo aver detto in diretta Fabio Fazio non scende in politica, in realtà ieri ha detto il dovere di fare qualcosa per l'Italia. Ora, questo qualcosa come si concretizzerà, questo è tutto da vedere. Però certo si registra questo. Luca, non è più possibile aspettare, anche il racconto di Roberto Mania su Repubblica a dire, i collaboratori di Montezemolo invece a dirgli è il momento proprio di scendere in politica. Oh, che sia in piena campagna elettorale, e questo lascia supporre anche dalla telefonata in onda che ancora fa discutere di Berlusconi un paio di giorni fa a Ballarò. Il Corriere della Sera intervista Giovanni Floris, il conduttore di Ballarò lo fa Paolo Conti, che è sempre un attento osservatore di cose Rai. Floris al Corriere dice: io invito Berlusconi quando vuole porre domande al mio lavoro, io ho solo posto delle domande, però segnalo una stranezza, dice Floris, stiamo discutendo sulle mie domande e non su un'anomalia assoluta, cioè quella di un presidente del Consiglio che telefona in diretta TV e quando sente in arrivo le domande chiude la comunicazione. Immaginiamo Zapatero, Merkel, perfino Sarkozy fare una cosa simile, ma noi lavoriamo in Italia e ciascuno è tenuto a lavorare al meglio nel contesto che gli è dato. E poi Floris dice: inviterò Berlusconi martedì a Ballarò, naturalmente col contraddittorio e nel rispetto delle regole della trasmissione. Oh, invece prosegue la saga delle inchieste sul ministro Bondi. Sapete, il Fatto Quotidiano è da qualche giorno che dice: prima ha dato una consulenza all'ex marito della sua compagna, poi al figlio della sua compagna e poi un premio inventato, secondo il Fatto Quotidiano, alla Biennale di Venezia, letteralmente inventato per un'attrice, Michelle Bonev, una anche regista, bulgara, amica di Berlusconi. la vicenda finisce anche sul... Oggi il Fatto Quotidiano ci torna, a pagina 2, Dragomira e 32 a Venezia, ma chi ha pagato? Sempre Malcolm Pagani racconta che questa regista attrice fu anche accompagnata da una sontuosa corte di 32 persone, tutte a Venezia, a spese di chi? E secondo il Fatto Quotidiano a spese del Ministero e dunque a spese degli italiani. Hotel a 5 stelle, tutto per 5 giorni a Venezia, una delle città più costose al mondo, soprattutto poi in quel periodo. Sul Corriere della Sera diventa un'intera pagina, favori, premi e polemiche, Bondi ancora sotto attacco e Fabrizio Roncone va a intervistare la diretta protagonista, Michel Bonnev, che esordisce così: che cosa? Non mi ripeta neppure quella domanda. Beh, che, tanto che Roncone dice, beh, si calmi, è assurdo, orrendo, io sono una produttrice, un'attrice, una sceneggiatrice, una scrittrice, merito rispetto. Vuol sapere se mi hanno regalato il premio? No, no e ancora no. Io quel premio me lo sono meritato perché il mio film Goodbye Mama è un film grandioso. Punto e basta. E poi dice, guardi, il ministro avrà visto il suo film, non lo so, io non conosco Bondi. Ma quando ha appreso che sarebbe stata premiata? Una settimana prima della cerimonia. Pensi che il film non era ancora del tutto pronto? Scusi, se il film non era pronto, che cosa avranno visto quelli che l'hanno premiata? Senta, mi ascolti. Io ho capito che qui vogliono fare fuori Bondi. Vogliono sfiduciarlo. Ma non accadrà attraverso di me. E poi chi le ha consegnato il premio? Al ministro Carfagna, che le disse che il film l'aveva commossa. Commossa? Beh, guardi che il film, racconta Michel Bonnev, racconta un dramma familiare, la vita di una madre, due figlie, una nonna. E insomma si difende, secondo il Corriere era l'attrice che già era entrata nelle polemiche all'epoca delle famose intercettazioni di Agostino Saccà, perché era stata anche messa al Festival di Sanremo in co-conduzione o comunque affiancata a Pippo Baudo, che all'epoca si era un pochino adombrato. Insomma, l'intervista a Michel Bonnev che dice: nessun regalo quel premio, il mio è un film grandioso. Il traffico. In primo piano. Irlanda, austerity fino al 2014, questa, come detto, è l'apertura del Sole 24 Ore, che si concentra ovviamente sulla situazione di Dublino, una situazione difficile. Leonardo Maisano ne racconta pagina 3, la maxi manovra a Dublino, ovviamente sono stati soprattutto i tedeschi, è stata soprattutto Angela Merkel a vincolare, a dire noi diamo gli aiuti a Dublino, ma Dublino faccia un piano di austerity molto molto serrato. Ecco, si tratta di un pacchetto da 15 miliardi di euro col 40% della manovra che verrà attuato nel 2011, e la Germania accoglierà la richiesta di aiuto dell'Irlanda se Dublino, che nel frattempo tanto è stata declassata da Standard & Poor's, accetterà condizioni che garantiscano un ritorno alla stabilità. Ed ecco dunque Leonardo Maisano che racconta il piano quadriennale da 15 miliardi, per due terzi sono tagli alla spesa annunciati dal premier Brian Cowen. Ovviamente, come si vede in questi casi, è una situazione politica esplosiva, perché sono tagli al welfare, tagli per 2,8 miliardi, tagli ai servizi pubblici per 3 miliardi, tagli al pubblico impiego per 1,2 miliardi, tagli agli investimenti per 3 miliardi, nuove tasse, l'aumento dell'imposizione sulle persone fisiche, l'incremento dell'aliquota dell'IVA al 22% nel 2013, l'aumento del contributo degli studenti per l'istruzione di terzo livello. Insomma, bisogna fare un piano di rigore finanziario, altrimenti gli aiuti non arrivano. E ovviamente l'altro tema collegato, sul quale si cimenta anche oggi La Stampa, pagina 13, una bella pagina di Stefano Lepri, è questa: torna la tentazione di uscire dall'euro. E ci si chiede, ma davvero si può uscire dalla moneta unica? Una situazione che già la cancelliera tedesca Angela Merkel ieri ha definito, leggevamo dal Sole 24 Ore, molto molto seria, ipotizzando anche la possibilità che la Germania possa uscire dall'euro. E ogni qualvolta escono queste vicende, ecco che torna la domanda, la tentazione di uscire dall'euro. Il presidente di Confindustria Marcegaglia, racconta Nicoletta Picchio a pagina 6, dice: l'Italia non rischia, perché questo è l'altro tema, cioè dopo la Grecia, dopo l'Irlanda, tutti i paesi ovviamente si interrogano su chi e se ci sarà un prossimo paese coinvolto dalla crisi finanziaria. L'Italia non rischia, dice Emma Marcegaglia, che poi si appella all'Europa perché si muova tenendo presente il bene comune europeo da una parte, facendo prevalere una logica complessiva, senza però nazionalismi e senza soprattutto ammazzare finanziariamente il paese, l'Irlanda in questo caso, perché altrimenti si otterrebbe il risultato opposto. Trovate molto ancora sui rifiuti, ricorda il nostro sondaggio, il tema dei rifiuti che il Nord in gran parte ha rifiutato, scusate il gioco di parole, rifiuti di Napoli che il Nord non vuole, perché ieri il ministro Fitto ha incontrato le regioni. Ebbene, soprattutto Lombardia, Veneto, Piemonte, Liguria hanno detto no. C'è anche un fronte Lega, perché Bossi ha detto il problema dei rifiuti campani è un problema che va risolto a Napoli. Rifiuti, il Quirinale rinvia la firma sul decreto, questo è un altro tema che troviamo a pagina 6 del Corriere della Sera. Per il momento Napolitano, un piccolo giallo, non ha ancora firmato il decreto del governo chiedendo ulteriori delucidazioni giuridiche. C'è un bellissimo reportage che vi segnalo del Corriere della Sera, pagina 8, di Goffredo Buccini. Qui niente munnezza, il boss difende il fortino, parte dal racconto di 10 metri in vicolo lungo Trinità degli Spagnoli, in mezzo al rione Monte Calvario, da 2 settimane costipato di munnezza, ma ci sono dei metri lindi come un marciapiede di Lugano. Quell'avviso l'ha scritto, un avviso qui non mettete spazzatura, non scritto in maiuscolo, e uno che passa dice quell'avviso è stato scritto da uno che ce lo poteva scrivere e chi abita in zona lo sa, è una questione di rispetto. E infatti quei metri di strada, racconta Goffredo Buccini, sono puliti come il marciapiede di Lugano. Andiamo alla segnalazione conclusiva, andiamo sullo sport. L'Inter torna alla vittoria, alla qualificazione, la Gazzetta dello Sport cambiasso scaccia fantasmi, ma io voglio segnalare che ti ha combinato l'ultima di Mourinho, già definito da tutti José Furbinho. C'era una partita del Real Madrid, il Real Madrid ha vinto 4-0 ad Amsterdam con l'Ajax, mancava un minuto, siccome l'ultima partita non conterà nulla per la qualificazione, il Real Madrid è già qualificato al successivo turno, c'erano un paio di giocatori diffidati, cioè alla prossima ammonizione verranno squalificati, e Mourinho agli ultimi minuti ha chiaramente e visibilmente fatto capire loro di farsi ammonire apposta per essere espulsi ed essere così squalificati nella prossima partita che non conta nulla ed essere nuovamente disponibili per gli ottavi di finale. Mu, che putiferio! Questo è il titolo della Gazzetta dello Sport. Il portoghese fa il furbo sul 4-0 del Real con l'Ajax, ordina a 2 giocatori di farsi espellere per averli puliti agli ottavi. La TV lo smaschera, l'UEFA si arrabbia, José Furbinho non cambia mai per il Fatto Quotidiano, José Mourinho è così, ha fatto questa furbata e dunque niente, il soggetto è questo, che dobbiamo fare? Votate il sondaggio sui rifiuti, il Nord dice no ai rifiuti della campagna, una scelta giusta su Radio24.it, ora il GR 24 mattino, l'intervista. Alle 8 e 22 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan, voglio salutare il sindaco di Sappada, Alberto Graz. Sindaco, buongiorno. Buongiorno. Siamo a Sappada, vale a dire in provincia di? Belluno. Regione? Regione Veneto. Regione Veneto. E com'è che volete passare in Friuli Venezia Giulia? Insomma, noi siamo in una regione Veneto, però siamo incuneati fra 2 regioni a statuto speciale. Sì. E diciamo Sappada, che è proprio nell'estremo nord della provincia di Belluno, soffre tantissimo di queste differenze che ci sono fra le due situazioni anche finanziarie, economiche. Ecco il punto, perché lei lo saprà, insomma, oggi è una notizia magari che sui giornali la trovate non in prima pagina, ma si ritrovano a Milano 500, certo, i colleghi, 545 comuni che sono comuni di frontalieri, diciamo, vicino a, di confine con le regioni a statuto speciale, che si sono un po' rotti le scatole dei privilegi dei comuni magari a fianco a loro, che hanno tutti i privilegi delle regioni a statuto speciale, hanno chiesto di passare, di cambiare regione. Voi volete passare in Friuli Venezia Giulia. E il Friuli vi ha accettato, cioè ha detto di sì. Beh, guardi, ha fatto moltissimo piacere tutto il Consiglio regionale, praticamente all'unanimità, avrebbe accettato l'ingresso di Sappada in Friuli. Questo fa piacere perché rispetto a altre località, cito Lamon, che non ha avuto lo stesso esito poi la votazione, sì, in quanto il Trentino non gli ha permesso di... È stato il primo caso in Italia, quello famoso, Lamon, che voleva passare. Esatto. La differenza è che il Friuli ci vorrebbe. Per cui siamo nella condizione di essere contesi, bella cosa, no? Senta, ma qual è il privilegio che in Friuli, che a pochi chilometri da voi c'è, che voi invece non avete in Veneto? Ma guardi, lasciamo perdere il privilegio diretto. Diciamo che nel Friuli, nel Trentino, c'è un'attenzione particolare per la montagna. Ci sono dei progetti per la montagna. Allora, guardi, Sappada ha 267 partite IVA, e a queste io mi devo rivolgere, perché qui con 1300 abitanti lei capisce che c'è la possibilità di vivere attraverso queste, sì, partite IVA, e sono nella condizione di subire una, diciamo, dei trattamenti diversi rispetto ai paesi vicini. Pertanto si guarda verso il prato del vicino come un prato più verde. Però, faccio l'esempio, sulle infrastrutture. Cioè, il Friuli finanzia completamente gli impianti a fune, noi ce li dobbiamo sostenere in proprio. Certo. Però capisce, sindaco, sa cosa ha detto il governatore del Veneto, Luca Zaia? Ha detto no, così non si va, cioè a furia di spostare i confini, se poi ci sarà sempre un comune di confine che chiederà di andare nella regione a fianco a statuto speciale, a furia di questo passo daremo uno sbocco al mare al Trentino. Allora, il nostro presidente, ripeto, il nostro presidente Luca Zaia, con cui mi sono trovato una settimana fa, ha le idee molto chiare su questo punto. Il problema è che siamo tutti deboli, cioè non è che possiamo andare avanti a slogan, nel frattempo qui si muore. Noi gli abbiamo proposto, come Sappada, un progetto di sviluppo legato a, in qualche modo, allo sviluppo alberghiero, portare qui anche degli imprenditori che vogliano, sì, investire sul settore alberghiero, anche perché urbanisticamente siamo a posto. Non so se voi conoscete Sappada, ma è un paese che ha una storia, una tradizione, sì, 200 certo, anni certo, di sci alle spalle, per cui già i nostri vecchi avevano visto come un'opportunità il turismo. Ripeto, a livello urbanistico siamo a posto, oggi mancano le condizioni economiche per portare qui qualcuno. Ma capisci, è quasi quasi, Zaia potrebbe dire, una concorrenza sleale, cioè io cosa posso fare rispetto alla regione a statuto speciale, cioè cosa posso fare? Loro hanno lo statuto speciale, hanno dei privilegi che noi non abbiamo. Innanzitutto, ci sono due possibilità, o si tolgono i privilegi o si portano i privilegi per le aree di montagna. Uguale a tutti. Oppure dice la terza, è che noi ce ne andiamo in Friuli, ecco. Sì, vabbè, ma questo è un iter che ha il suo percorso, può durare un mese, un anno, 5 anni, magari io non sarò neanche più sindaco, cioè non è questo. Sì. Il problema è che, anzi, io voglio ringraziare veramente i referendari, perché in 3 anni di lavoro hanno fatto più che in 20 anni tutta la politica, sì, bellunese messa assieme. Perché ricordiamo, il 95% della popolazione di Sappada al referendum ha detto vogliamo andare in Friuli. Sì, qui bisogna differenziare. C'è qualcuno che vuole andare in Friuli, c'è qualcuno che vuole scappare dal Veneto. Non è una differenza banale. E quanti sono quelli? No, diciamo che il 70% ha votato per... Sì. No, all'interno il 70% della popolazione ha votato per andare in Friuli, altri 5% erano quelli contrari, però diciamo non c'è stato un un partito del sì o del no. Sì, sì. È stata una forma di protesta. Una forma di protesta. In ogni caso, sindaco, io le faccio tanti auguri su questa strada. Vedremo, ci dovrà essere anche coinvolto il Parlamento per questa vicenda. Staremo a vedere, monitoreremo e vedremo dove andrete a finire, se rimarrete in Veneto o in Friuli. Va bene. Io spero innanzitutto lei venga a trovarci. Va bene. Sì, questo... vedrà che località bella che l'aspetta. So, e la ringrazio di questo. Saluto anche voi, buona giornata. Grazie sindaco. Alberto Grazia, il sindaco di Sappada, in provincia di Belluno, in Veneto, ma hanno chiesto, vogliamo andare in Friuli, perché lì c'è una ragione a statuto speciale e tra l'altro oggi 545 comuni confinanti con Trentino, Friuli e Val d'Aosta si radunano a Milano per dire vogliamo cambiare regione. E allora ci fermiamo, pubblicità e meteo, e poi parliamo di rifiuti, i rifiuti di Napoli che parte delle regioni del nord, la maggior parte delle regioni del nord dicono non vogliamo. È una scelta secondo voi giusta? Votate su radio24.it oppure 800 24 0024, tra poco. 24 mattino. Alle 8:34 minuti, eccoci qua. Allora, parlare di rifiuti, i rifiuti di Napoli che alcune regioni vogliono, altre no. Le regioni del nord dicono non vogliamo i rifiuti di Napoli. È una scelta giusta, vi chiediamo? Io soy o blanco o negro. Gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero. E allora, intanto voglio salutare il sindaco di Treviso, Gianpaolo Gobbo, che è anche il coordinatore della Lega per il Veneto. Sindaco, buongiorno. Sì, buongiorno. Eccoci a lei qua. E a tutti gli ascoltatori. Mi lasci salutare anche intanto Peppino Caldarola del Riformista, buongiorno direttore, buongiorno, eccoci qua. A tutti voi. E Daniele Fortini, che è l'amministratore delegato della ASIA, vale a dire l'azienda che deve smaltire i rifiuti di Napoli. Dottor Fortini, buongiorno. E grazie dell'invito. Intanto, sindaco Gobbo, le voglio far ascoltare quello che ha detto, ma è diventato celebre un paio di giorni fa, no? Saviano, l'ha visto anche lei intanto, Saviano? Lunedì? No, l'ho visto, ma l'ho sentito. E allora glielo faccio risentire, senta che dice. Spesso le risposte dei politici del nord, non vogliamo la vostra spazzatura, oppure quando ascoltiamo, ma sono problemi di Napoli, voi non sapete farlo, voi piangete le vostre tragedie. Ma non è così. La spazzatura di Napoli, la spazzatura di tutti. Il paese è un paese unito, significa che è un insieme di vasi comunicanti. Un problema non è mai un problema di una parte. Ragionare così è ragionare da codardi, da miopi o in malafede. Ha sentito, codardi, miopi o in malafede. Il Veneto ha detto no, non solo il Veneto. Sindaco. Ma guardi, allora cerchiamo di rientrare in certe situazioni, perché io credo che sia veramente una cosa abbastanza profonda e che viene da lontano. Noi qua ad esempio abbiamo il 70% di raccolta differenziata, siamo organizzati in maniera diciamo molto profonda su tutto il territorio, anche nelle zone più difficili, per cui credo che ci sia stata anche una volontà che non è di adesso ma da tempo di creare questa situazione, perché altrimenti ci troveremmo tutti nelle condizioni di Napoli. Credo sia questa la differenza, solo questa. Ma sono di tutti quei rifiuti o sono di Napoli? Dica cosa ne pensi. No, io sto dicendo che questi sono i nostri rifiuti, ma noi ci troveremmo nelle condizioni di Napoli se non avessimo organizzato a suo tempo la raccolta differenziata e soprattutto l'organizzazione, diciamo, di spiegare ai cittadini come anche si deve fare e dare ovviamente delle risposte con quelle che sono, purtroppo noi abbiamo già dato, cioè questo è il problema. Che non si capisce. Però noi abbiamo un territorio ad esempio di scariche che è notevole, credo sia quello che per percentuale sia il più alto d'Italia, per cui siamo già in una situazione, diciamo, di criticità, oltre a una questione, diciamo, di cultura di base da cui si parte poi per la differenziata. Però la differenziata è uno dei problemi, un altro di quei problemi, per esempio, sul quale poneva l'accento Saviano, è i rifiuti di Napoli sono del nord per tutti i rifiuti che negli anni sono stati sversati in campagna anche dalla criminalità. Questo non lo so, perché questo è un altro discorso, per carità, ma questo è sempre comunque l'amministrazione pubblica che deve controllare e accettare in base a quello che può accettare. Andare in overdose in certe situazioni è ovvio che è poi una colpa, da 12 anni a questa parte, scusate, 12 anni, ma andiamo ancora avanti, poi purtroppo lei sa, come tutta Italia sa e non solo l'Italia sa, partendo dalla Jolly Rosso in poi, da quando ci sono purtroppo scoperte determinate situazioni, cioè per fortuna, ma abbiamo visto purtroppo che situazioni c'erano, per cui questa è una responsabilità ben precisa. Allora, io vorrei da Peppino Caldarola, prima di andare dal dottor Fortini, che come detto è l'amministratore delegato di quella ASIA, che oggi anche il Corriere racconta con Goffredo Buccini, quando intervengono i funzionari, i rappresentanti dell'ASIA che devono togliere la spazzatura, insomma c'è il rischio ogni volta che si degeneri quasi anche in discussioni che finiscono anche in risse. Giuseppe Caldarola, lei tra l'altro qualche giorno fa aveva vergato un pezzo che ci aveva colpito, no? La tentazione di dire ai veneti arrangiatevi per le recenti alluvioni. Un arrangiatevi che invece le si strozzava in gola perché non le veniva da dire. Ora invece sente un po' che il Nord dice arrangiatevi alla Campania? Sì, io lì dicevo che dopo aver letto le frasi tipo forza Etna, forza Vesuvio, veniva in mente quella terribile parola e concludevo che quella parola doveva restare in gola perché bisognava viceversa aiutare i veneti. Oggi ci troviamo di fronte al rifiuto di almeno quattro regioni settentrionali, perché c'è il Veneto, il Piemonte, Lombardia, la Liguria, Liguria e anche la Lombardia. La Lombardia, anche il Friuli, però. E anche il Friuli, questa mi mancava. Siamo di fronte, cioè, a un diniego che in qualche modo non è solo una mancanza di solidarietà, ma anche uno scarso. Una scarsa comprensione, guardate, Saviano secondo me ha ragione, scarsa comprensione dei compiti di una comunità nazionale. Io faccio un esempio storico, guardate, nei primi anni dopo l'unità d'Italia, quando Napoli venne colpita da un drammatico colera, il nuovo Parlamento del Regno, Parlamento unitario, approvò una legge sul risanamento della città di Napoli. Fu trovato allora un consenso contrastato, ma fu trovato per mettere la città di Napoli al centro di una grande iniziativa di solidarietà. Io mi chiedo, possibile che 150 anni dopo lo spirito nazionale sia addirittura inferiore a quello che esisteva nei primi anni post-unitari? Se la risposta è sì, io penso che l'Italia è un paese destinato a morire. Sentiamo che ne pensa, non so se vuole entrare in queste considerazioni, dottor Fortini, amministratore delegato della ASIA. Intanto ci dia alcuni dati sulla situazione dell'immondizia per le strade di Napoli e poi ci dica che ne pensa di questo diniego da parte di alcune regioni del nord. Ma guardi, in questo momento noi abbiamo ancora a terra circa 3.000 tonnellate. Questa notte ce l'abbiamo fatta a trasferire la produzione giornaliera, cioè quella di ieri, 1.300 tonnellate negli impianti che sono disponibili, però non ce la facciamo a togliere il pregresso, cioè quelle 3.000 tonnellate che da 5 giorni si sono accumulate nelle strade e che ancora non sappiamo dove portare. Abbiamo una capacità di carico importante, vale a dire che potremmo portarne via anche 400 al giorno in più rispetto a quelle che raccogliamo della produzione quotidiana, ma dobbiamo sapere dove portarli questi rifiuti, perché il problema è che non ci sono discariche, non ci sono impianti di trattamento, non ci sono altri tipi di smaltimento attualmente disponibili. Quindi la situazione sul campo è veramente, veramente molto, molto preoccupante. Molto preoccupante. Osservo che si tratta di 3.000 tonnellate e nella regione Campania ci sono discariche per 1.000.000 di tonnellate ancora disponibili. Io ringrazio le regioni del centro Italia, del nord, che si sono dichiarate disponibili ad accogliere queste tonnellate. Stiamo parlando veramente di una sciocchezza. 3.000 tonnellate a terra in una città fanno una tragedia. 3.000 tonnellate in una discarica ne può accogliere 1.000.000, è francamente una sciocchezza. Quindi dice proprio basterebbe un minimo gesto da parte delle regioni? Un minimo gesto prima di tutto da parte delle discariche della Campania, perché c'è la possibilità di smaltire questi rifiuti nella nostra regione, e poi certamente per quelle frazioni di rifiuto che possono andare al recupero quindi al compostaggio. Siccome non ci sono impianti di compostaggio in Campania, per quello abbiamo bisogno delle regioni del nord che questi impianti li hanno. Certo. Cioè, ci sta dicendo le discariche della Campania, vale a dire quelle fuori Napoli, non so, Avellino, Benevento. Delle altre province. Delle altre province. Basterebbe. Esatto. Quello che chiediamo è che il nord ci aiuti perché ha impianti di compostaggio e impianti di trattamento, che in Campania non ci sono, non ci sono in Calabria, purtroppo non ci sono in tanta parte del Mezzogiorno. Quindi chiediamo di avere impianti di recupero, non di scariche dove portare la monnezza della strada. Quella della strada la togliamo, la portiamo nei nostri impianti di trattamento, che invece ci sono e che adesso sono ingolfati perché non riescono a liberarsi del materiale lavorato. Tra l'altro, dottor Fortini, le chiedo, ieri quando la nostra redazione, la nostra Antonella Migliaccio l'ha chiamata, so che lei ha detto: io ho accettato questa sfida, la sentiamo, lei non è di Napoli, no? Lei è di dove? Sono fiorentino. Di Firenze. Ha accettato questa sfida un paio d'anni fa di guidare questa azienda, spesso anche nell'occhio del ciclone si parla di alto dose di assenteismo, di troppi assunti, di fannulloni. Ha letto oggi il reportage del Corriere, dice: quando arrivano i dipendenti della SIA si rischia ogni volta ai crocicchi delle strade anche delle risse, delle discussioni molto, molto animate con le persone che non ne possono più. Beh, guardi, l'azienda ha tanti difetti, è un'azienda inefficiente, è un'azienda che ha livelli occupazionali considerevoli, che ha dato accoglienza per motivi di coesione sociale a tante persone che avevano bisogno di essere incluse socialmente. È un'azienda che ha bisogno di essere fortemente riorganizzata e ristrutturata, però è un'azienda che da 15 anni è costretta a vivere nell'emergenza permanente e quindi è tarata, se vogliamo dire così, nelle gestioni emergenziali. In questi casi l'azienda diventa veramente di una generosità impressionante. È la normalità che non si sa gestire, è l'ordinario, il quotidiano. La cosa che dicevamo un minuto fa, ma i rifiuti di Napoli sono di Napoli, sono di altri. Io so che sono venuti gli ispettori europei lunedì e martedì, e il motivo per cui sono venuti è perché è a rischio la salute e l'ambiente dei cittadini europei residenti a Napoli. Per questo motivo sono venuti. Cioè non dei cittadini napoletani, ma europei. Ora è curioso che mentre da Bruxelles arrivano a dirci: siete cittadini europei, ci stiamo preoccupando di voi, gli altri italiani ci dicono: no, voi siete un'altra cosa, non vi riconosciamo. E questo francamente è un po' spiacevole. Detto questo, quando poi da Bruxelles partono le sanzioni per le infrazioni comunitarie, e cioè l'Italia non è stata in grado di garantire. Arrivano a tutti, certo. Arrivano all'Italia. Arrivano al paese. No, ma da qui, dottor Fortini, voglio ripartire dopo il traffico dal nostro sindaco Gobbo da Caldarola tra un attimo. Io soy o blanco o negro. Gris, no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Detto che il 72% dei nostri ascoltatori dice: scelta giusta quella del nord, di non accettare rifiuti di Napoli, sarà contento il sindaco Gobbo. Però Gobbo ha sentito, cioè l'amministratore delegato della SIA ci dice che sono arrivati dall'Europa per dire che siamo cittadini europei, che le infrazioni eventuali arrivano al paese, e soprattutto che è un'infima, minima quantità che in un secondo sarebbe risolta, quella di togliere 3.000 tonnellate da Napoli. Questa mi sembra un'ulteriore presa per i fondelli, perché allora se è così semplice la cosa, perché ormai da decenni stiamo ancora andando avanti con questa situazione? No, ma dice, cioè 3.000 tonnellate in una città si vedono, ma mezze per l'Italia lasciamo stare, perché questa è una situazione di equilibrio. Siamo tutti borderline, ma anche le Marche stesse, cioè, hanno questo problema. Sì. Non ci sono queste possibilità, bisogna purtroppo creare queste situazioni. Io vorrei chiedere perché allora i centri non sono stati fatti nelle regioni del sud, come parlava prima l'amministratore delegato dell'ASI. Però voglio dire, ma il federalismo solidale. Ma sì, il federalismo solidale, ma è usque tandem Napoli abitare patientiam nostram. Cioè, a questo punto io posso dare tutta la solidarietà di questa terra, ma io ripeto, in un momento in cui un'alluvione colpisce delle province che producono, diciamo, il Veneto produce il 18% di prodotto interno lordo e che va, e tutte le quattro regioni del nord producono il 70% di prodotto interno lordo in tutto questo nostro stato e pagano il 72% di tassazione, per cui credo che anche questo sia un'altra riflessione da fare, perché quando si dice paghiamo tutti, ma noi stiamo sempre pagando, abbiamo stata la solidarietà, si è mossa un po' in ritardo, forse c'è stata una copertura, ma non è questione di muoversi in ritardo, il problema ma non è questo il discorso, anzi voi dovreste parlare con le popolazioni alluvionate e parlare con loro, io non voglio farmi l'abbiamo fatto. Di questo problema io voglio solo dire che non si può più accettare determinate situazioni. Io credo comunque che, come è stato fatto già altre volte, c'è la via dell'estero, ci sono tante altre situazioni, ma soprattutto c'è la via a mettere nelle condizioni tali anche questa zona d'Italia per poter essere come, diciamo, le altre allora Giuseppe Caldarola, non ce la facciamo, ma le chiedo, non ce la facciamo nel senso a convincere, non che dobbiamo convincere, ma le chiedo quanto c'è secondo lei di politico come decisione, quanto invece di tecnico nelle decisioni di alcuni governatori del nord di dire di no. Ma c'è una cultura che si va diffondendo e che riguarda non solo le regioni a maggioranza leghista, ma con l'ingresso in questa top ten anche della Liguria, regioni amministrate dal PD. Quindi credo che ci sia una cultura non solidale che però non va affrontata con degli appelli. C'è un ragionamento, che è quello che faceva prima il dottor Fortini, che invece bisogna prendere molto sul serio. Qui c'è una parte dell'Italia che non ha degli impianti per smaltire e lavorare i rifiuti. Quindi io capisco il ragionamento all'istante, ma se guardiamo alla prospettiva, queste regioni dovrebbero rendersi conto che il loro sforzo può contribuire a risanare definitivamente il problema, a condizione che chi governa sia in grado di mettere le regioni meridionali nelle condizioni di poter smaltire e lavorare i propri rifiuti. Capirei se si dicesse non lo facciamo senza un progetto, e allora bisogna rivolgersi al governo perché tiri fuori questo progetto. Allora sentiamo se qualche ascoltatore, se siete brevi per cortesia, voglio andare ad Acerra dove c'è l'unico termovalorizzatore che funziona, sì e no. Salvatore, buongiorno. Buongiorno. Nike. Dovrebbero accettare al nord, come la vede? Io parto da un brevissimo ragionamento. Allora, se noi mettiamo sempre pezzi a questa situazione facendo accettare i nostri rifiuti ad altre regioni, capiterà che noi andremo avanti a mettere pezze. Allora, io capisco che c'è bisogno di solidarietà, però io capisco anche gli amministratori del nord che da noi vogliono delle risposte. Quindi La mia soluzione è questa: raccolta differenziata umido secco subito con un impianto come quello di Vedelago, cioè un trattamento meccanico manuale per cui si arriverà a fare una raccolta differenziata quasi del 100%. Da quel momento in poi qualcuno potrebbe accettare i nostri rifiuti. Quindi prima un buon esempio da parte nostra degli amministratori, della politica, e poi dopo tutto. Grazie. Grazie Salvatore, voglio andare a Milano da Carlo, buongiorno. Carlo. Niente, è caduta la linea. Allora, dottor Fortini, ha sentito la posizione di Gobbo, insomma una posizione molto pragmatica politicamente, risponde anche insomma alla sua popolazione, alla popolazione responsabile della Lega in Veneto, e una posizione di chiusura, cioè non si può vedere una parte d'Italia dove il sistema dei rifiuti non funziona, e quindi basta. Ma guardi, io rispetto la posizione del sindaco Gobbo e comprendo le preoccupazioni dei cittadini del Veneto come quelli di altre regioni che magari in questo momento sono orientati a dire di no. Osservo che da 16 anni dura l'emergenza a Napoli e da 16 anni è lo Stato italiano che si sta occupando, avendo speso 2 miliardi di euro di soldi di cittadini italiani, della soluzione del problema, quello strutturale. Però per questi motivi Gobbo dice di no, perché è da 16 anni e dice mo ci siamo rotti, ecco. bene, ma il rovescio della medaglia è la responsabilità. Non sono stati i campani da soli a generare questo tipo di problema. Lei ricordava le parole di Saviano, nello stesso tempo io dico 16 anni di presenza dello Stato italiano. Il direttore generale dei rifiuti della Protezione Civile è un veneto ed è persona di altissime capacità professionali, ovviamente, quindi c'è l'Italia impegnata. Bisogna costruire quegli impianti che oggi a noi mancano, bisogna aprire le discariche, bisogna mettersi in condizioni per i termovalorizzatori, cioè occorre fare tutto quello che è stato fatto al nord e prima di tutto la raccolta differenziata, non c'è dubbio. Però anche qui osservo una cosa, guardi, Napoli è al 19% di raccolta differenziata, la provincia è all'11%, la regione al 13%. Sì, quindi è evidente che Napoli il suo sforzo lo ha fatto, dobbiamo migliorarlo assolutamente, però anche lì i 2 miliardi di euro di denari italiani, i cittadini sono stati spesi in questi 16 anni, soltanto 70 milioni sono andati alla raccolta differenziata. Allora oggi si pretende di avere i risultati del Veneto, che sopra il 40% siamo bravissimi, i veneti in questo. Sì. Senza i soldi, certo. Io mi devo fermare ringraziando l'amministratore delegato della SIA Daniele Fortini, Giampaolo Gobbo, il sindaco di Treviso e Peppino Caldarola del Riformista. La domanda rimane: perché anche le altre province campane dicono di no? Abbiamo avuto i presidenti di Avellino e Benevento, perché dicono di no anche i presidenti dove ci sono delle discariche? Questa è la domanda con cui vi lascio. Grazie ad Antonella Migliaccio in redazione, Peter Bescapè in regia, la linea a Oscar Giannino. A domattina.